Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e un saluto agli ascoltatori. Allora Gianluca, oggi parliamo di una cosa che è capitata, che è la chiusura della COPCA di via San Donà a Mestre. E questa chiusura di questo supermercato ha comportato dei disagi ad alcune persone. Sì, allora intanto devo dire Francesco che la COPCA si è chiuso in via San Donà, ma ha chiuso anche in altre zone di Mestre. E comunque insomma è in una situazione difficile. Ricordiamo che la COPCA è la cooperativa della Carnia, quindi da distinguere rispetto alla cooperativa Adriatica che ha sede appunto in Emilia Romagna. Ora la questione chiaramente da noi è emersa perché una persona, un ex socio prestatore, si è rivolta a noi, però diciamo che ha scoperchiato una situazione che vedremo con il tempo di che dimensioni è. Perché in realtà la COPCA, che è un supermercato, è andato in liquidazione nel 2014, agosto sì. 2014. Però voglio dire, è andato in liquidazione lasciando molti soci prestatori con un pugno di mosche in mano. Ecco, scusami, ti interrompo subito perché parliamo di soci prestatori, perché quando uno va a fare la spesa in una cooperativa può diventare socio, no? Avere la tessera, quindi avere gli sconti come capita anche in altri supermercati, ma poi ci sono delle possibilità in più, come quelle di prestare il proprio denaro magari ad un piccolo tasso di interesse. È un vero e proprio, diciamo, tra virgolette, istituto di credito, tra virgolette, nel senso che, come ci ha mostrato anche il nostro socio, insomma, c'è proprio un libretto in cui si può versare del denaro e chiaramente andare anche a ritirarlo, insomma, a seconda delle esigenze, quindi hai dei piccoli interessi e chiaramente come socio hai dei vantaggi nell'acquisto al supermercato. Quindi, Francesco, è la solita questione un po' del risparmio: dove metto i miei soldi? Li metto in banca? No, perché ho visto quello che succede. Li metto in un supermercato. A questo punto possiamo dire che non sappiamo esattamente dove possono essere messi questi soldi, forse sotto il materasso, il famoso materasso, perché forse è il luogo più sicuro, a meno che non ci entrino i ladri in casa. O investiti nel mattone, ma... Ma come sai il mattone però dal 2008 ha subito un crollo incredibile, anche se si sta un po' riprendendo, quindi insomma forse sconsiglierei anche il mattone, anche se adesso le case costano meno sicuramente rispetto all'inizio del nuovo millennio. Fatto sta che da noi insomma si è presentato un pensionato di 74 anni che bene o male aveva messo quasi 4.000 euro in questa cooperativa come socio prestatore, e il bello è che da un giorno all'altro si è alzato, è andato verso il supermercato vicino a casa e ha notato che era chiuso. È passato del tempo da quel giorno, l'ha ricevuto solo una lettera questa persona nella quale semplicemente il supermercato, insomma la cooperativa, diceva: guardi che lei in questo momento non può né ritirare né versare soldi. Allora a questo punto chiaramente il nostro pensionato ha cominciato a preoccuparsi, ha cominciato a informarsi, ha guardato internet eccetera, insomma ha capito che la cooperativa di via San Donà, ma come altre due cooperative della nostra zona, una Marcone e una Spinea, che sono dei comuni sempre in provincia di Venezia, hanno chiuso i battenti lasciando a piedi insomma decine e decine di soci. E conta Francesco che noi abbiamo un po' raccontato questa storia, abbiamo ricevuto varie telefonate, tra cui anche quella diciamo un po' triste di una signora di oltre 80 anni che in realtà nella cooperativa di Spinea ha messo 10.000 euro, quindi insomma stiamo parlando di cifre importanti, anche 4.000 euro sono tante ovviamente. E chiaramente questa persona, questo pensionato in questo caso, si è rivolta a noi e tramite noi adesso cercherà di recuperare tutta la somma versata. C'è da dire che anche dopo il nostro intervento la COPCA si è fatta sentire con questa persona, assicurando che nell'arco di alcuni anni verrà restituita metà della cifra che ha investito. Ora Francesco, capisci che posso anche apprezzare l'impegno, però insomma stiamo parlando di persone che hanno avuto fiducia, che hanno versato dei soldi qualcuno potrà dire che sono degli sprovveduti, ma non credo che si possa dare un giudizio così categorico, mm-hmm. assolutamente, e adesso si trovano che magari in 3 anni riceveranno metà di quello che hanno versato. Insomma, come Adico diciamo, state attenti a questo punto dove mettete i vostri soldi, perché i pericoli sono dietro l'angolo, non solo nelle banche ma evidentemente anche nei supermercati. Quindi veramente ritorniamo alle prime battute del nostro, della nostra telefonata. Dove mettiamo i soldi? Andiamo a vedere bene che banca scegliamo e poi cerchiamo di utilizzarli al meglio. Certe volte conviene spenderli, dico io. Ma anche dare dei consigli su questo fronte diventa ostico, ma oltretutto anche controproducente, perché i tempi cambiano. Magari tu hai avuto delle esperienze positive versando i soldi in una banca, poi dopo 4 anni ti ritrovi che quella banca fallisce o comunque insomma va in difficoltà. Ecco, quello che voglio dire è valutiamo bene dove mettiamo i nostri soldi, perché insomma in questi tempi la situazione è difficile, e quello che ci lascia veramente perplessi è che veramente le persone che restano più spiazzate da queste situazioni sono soprattutto gli anziani, sono soprattutto i pensionati, sicuramente abituati a ben altre situazioni, ai loro tempi in cui queste cose non succedevano, quindi evidentemente c'è anche una fiducia, anche perché Francesco, facciamo gli esempi anche della Popolare di Vicenza o di Veneto Banca, per cui qualcuno da esterno dice ma queste persone sono state delle sprovvedute, io non avrei mai messo 200.000 euro in Veneto Banca. Sì, però contiamo che Veneto Banca è una banca del territorio, è una banca in cui ogni giorno vado e parlo col funzionario, che è il funzionario mio amico, che mi ha dato anche il consiglio extra, insomma capiamo che ci si basa molto anche sulla fiducia. Io mi fido del supermercato sotto casa perché conosco i dipendenti, perché magari ho conosciuto il direttore. Forse ecco, troppa fiducia in questo momento nuoce evidentemente, però d'altronde da qualche parte i soldi bisogna metterli se non si vogliono tenere in casa. Ricordiamo che un normalissimo conto corrente, anche se la banca fallisce, è coperto da Banca d'Italia, questo in una banca, evidentemente non è così per un supermercato, per una cooperativa, quindi facciamo attenzione, ecco. Facciamo attenzione anche se la cosa che si può dire è che da quello che abbiamo visto, almeno sicuramente abbiamo smosso un po' le acque, siamo sinceri, però insomma vediamo che questa cooperativa non ha abbandonato i suoi soci del tutto, adesso dovrebbe anche organizzare un'assemblea dei soci, appunto come ho detto ha annunciato però in modo abbastanza vago questa restituzione di metà degli importi entro 3 anni. Sì, stiamo parlando comunque sempre di situazioni molto negative, per cui veramente diciamo attenzione a dove mettiamo i nostri soldi. Ecco, ricordo allora il sito associazionedifesaconsumatori.it. Vogliamo dire anche il numero di telefono, Gianluca, così magari qualcuno si ritrova in questa condizione, vuole avere magari un aiuto da voi, vi chiama. Allora è 041 534 9637. Benissimo, allora io ti ringrazio Gianluca e l'appuntamento con l'Adico è tra qualche giorno. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.